Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Cioè, la vita è come un cavallo, con in groppa anche il peso di un cervello, come una zanzara in Africa, perso tra mille, ma che dico, milioni di uomini. Anche io il diritto alla paura ho. Ok? Passiamo al secondo brano. Ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Volevo dire a tutte queste teste di cazzo che continuano a chiamare, a dire che Cruciani è negazionista, che Gottardo è negazionista, ma perché rompete i coglioni? Cioè, Cruciani ha appena finito di dire che ci sono 11 milioni di contagiati in Italia ed è negazionista. Non siamo negazionisti. Cazzo, ma lo capite l'italiano? Ce n'è 11 milioni di contagiati, questo virus non fa male nemmeno alle mosche, è tutta una vigliata po' culo. Esiste il coronavirus, ma non fa una minchia, non uccide nessuno. Lo volete capire o no? Dicono che non devo là. Dicono che non devo là. Andate a riconteggiare i morti, ammesso che siano morti veramente per il coronavirus, e poi facete la media con 11 milioni di contagiati. Si minchiate tampone tutti voi, 1.600, 1.200, sparate i numeri, sono saliti, sono scesi. Non serve a una minchia fare questi conteggi. Aumentano i tamponi, aumentano i contagiati. Ce n'è 11 milioni di contagiati in Italia. Ora basta questa storia, Conte, Speranza, cagasse un cazzo, capisco pure no. Covid-19, indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e tutto quanto. Iniziamo col bollettino del terrore, ragazzi, il bollettino del terrore, ormai lo chiamo così. 2548 nuovi casi, mai così tanti da 5 mesi, impennata in Veneto. Questo vi racconta il bollettino del terrore. Ad aiutare il bollettino del terrore, il signor Burioni. È tornato anche lui, signor Burioni. Le cose si mettono male, mamma mia che menagramo. Il virus è nocivo come in primavera. State attenti. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Buonasera, buonasera cari amici. Grazie anzitutto al direttore di questa radio e al gruppo che ci ospita, nonostante le volgarità che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.34, 32 fino alle 20.50 vadano in onda. Quindi grazie, secondo me è una trasmissione che comunque presto dovrà essere chiusa e al suo posto sostituita. Vaffanculo! In collegamento da Abano Terme, Alberto, ecco, Gottardo. Marchetta. Fino a Natale no. Mollemente adagiato. Però scusa, prima opinione velocissima di Gottardo su questa situazione. I veri negazionisti sono la gente come Burioni, che vuole negarmi il diritto di vivere una vita normale. Ma non io non voglio che mi neghino il diritto di vivere, di girare, di scopare. Ma di nessuno andare in te giro. Lo nega. Mi sono scopare, rotto i non coglioni. C'è il problema perché mi non accadrà mai. Rotto i coglioni. Mai, non ti preoccupare, quello non accade. Nessuno ti vieta nulla. Nessuno ti vieta nulla. C'è un problema che si chiama pandemia. Per favore, pan, dai, David, ti ricordi che abbiamo fatto basta, il greco? Basta pan. Avere paura. Cosa vuol dire basta in greco? Avere pan. Paura. Pan. Giù, in greco. Giù. Intanto Conte proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio, ragazzi. Forza, fino al 31 gennaio. È un esercizio di sentiamo potere. Conte, una delle poche volte in questa emissione radiofonica. Signor Conte, signor Conte. Quindi abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021. Però qui, ragazzi, la polemica è su un'altra cosa. Zingaretti, il capo del PD, il capo del PD, Zingaretti, dice che con Salvini durante il Covid l'Italia sarebbe un paese morto a questo punto. Cioè, se ci fosse stato Salvini alla guida delle operazioni, insomma al governo durante il lockdown, durante il Covid, quello che è, durante le prime fasi del Covid, l'Italia sarebbe un paese finito, morto. Ma in base a ragazzi, cosa? In base a cosa è? Lo dice? Zingaretti. Ma era lui che andava a fare Zingaretti. Gli aperitivi. Peraltro Zingaretti, no? Zingaretti andò a fare allora l'aperitivo dicendo Milano, apriamo Milano, eccetera, eccetera. Dai, allora, apri forza. Milano, diceva. Dai, vergogna. Dai, dai. Ma che c'entrerà un'altra fase, non si ma che c'entra? Allora, allora che cazzo dice? Come fa? Ma che è il divino tema? Niente, dai, con Salvini sarebbe il paese sarebbe morto, ma che è hotel? Beh, viste le modalità che i sovranisti in giro per il mondo hanno adottato, sì, certo, Boris Johnson. Perché la Gran Bretagna è morta. Gli Stati Uniti sono morti. Donald è un paese Trump, morto. Gli Stati Uniti Donald Trump, che ci fanno sempre Boris un culo Johnson, così. Boris Johnson, Donald Trump, due esempi di come hanno gestito la pandemia beh, in modo incredibile i sovranisti in quei paesi. Incredibile. Se avesse vinto il nazionalismo leghista di Matteo Salvini durante il tempo del Covid, oggi l'Italia sarebbe un paese morto, senza speranza. E la replica di Salvini, avanti, facciamo un po' di porta a porta. Sì, porta a porta. Di Salvini fai, il manutengolo di Salvini, il manutengolo dei poteri forti, il manutengolo di Burioni, il manutengolo del comitato tecnico scientifico, il manutengolo degli scienziati del governo, il manutengolo dell'OMS, lo scendiletto di Speranza, sì, gli hai pulito il culo a Speranza qualche volta, gli hai pulito le scarpe. Onda, sempre, onda. Esagerare, dai, sempre esagerare. Che squallore, con 35.000 morti, che pena. Posso fare come se fossimo in pubblicità e non ci ascoltasse nessuno? Che schifo, che schifo. Sei in una terra che ha sofferto e vai a fare un comizio dicendo che se avesse vinto Salvini l'Italia sarebbe morta? Che schifo. Allora Salvini ha rivelato Salvini ieri una cosa. Salvini che ha sempre avuto rispetto dei morti, ad esempio quelli nel canale di Sicilia con i naufragi, non si è mai speculato sui morti che Cosa c'entrano i morti nel canale di Sicilia? Questo è giusto. Che sono molti più di 35.000. Ma che colpa di Salvini se è morta gente nel canale di Sicilia? No, però che cazzo dici? Questa ragione, non ho detto che sia colpa, però il rispetto dei morti da Salvini non lo impariamo, per cortesia. Allora Salvini dice che ha 300 rosari, ti giuro, ha 300 rosari, possiede 300 rosari. Pensavo ne avesse 49 milioni. Poi devo dire che riservatamente parroci, frati, missionari, suori mi hanno... Siamo arrivati a circa 300 rosari mandati in omaggio dopo i due rosari strappati. Peraltro da quell'ossessa che mi ha detto ti maledico, io non credo a certe cose, mi è venuta l'ernia. Ti maledico, c'ho la spalla bloccata da una settimana, quindi. Beh, adesso non è che. non è che ti è venuta l'ernia. Come Calderoli, ti ricordi? Cioè, sì, ho capito, ma non è che gli è venuta l'ernia. E gli è venuto semplicemente il perché. No, ho capito, perché quella là. Gli è venuto no, il dubbio ti maledico, che l'hanno fatto la macumba, capito? Su. Comunque ragazzi, non voglio dire niente, perché i dati, sapete che non credo la conta giornaliera dei dati, qual è secondo voi la regione col contagio più esteso in questo momento? Non voglio fare sciacallaggio perché non mi interessava nemmeno farlo prima, ma qual è la regione dove con io ero un contagio fino più fino esteso, la che Campania. Prima diceva di essere la più virtuosa, tutto ha funzionato bene, perfetto, gli ospedali, il modello, pure in America ci elogiano, e qual è la regione col contagio più esteso adesso? E qual è la regione? Dai, su, forza, dai governatore del mondo, forza. Lo sgarbone ci sta sempre, vai. Va bene che siamo un fanalino di coda, non tanto per l'economia, ma perché siamo il terzo paese per morti, nonostante le misure di questo governo di merda, e mentre tutta l'Europa è in grave emergenza, ma senza stato di emergenza, noi che abbiamo una minore emergenza siamo in stato di emergenza, cioè siamo fuori dall'Europa. E questo dà la misura della coglionaggine assoluta di questi deficienti, i quali continuano a creare l'effetto, perché le parole... Secondo Porro bisognava sparare al peschereccio tunisino che ha speronato un'imbarcazione italiana. Bisogna sparare. Ma hanno sparato, infatti. Ma Porro era liberale una volta. È cresciuto alla scuola di Antonio Martino. Non avrebbe mai detto delle frasi simili. Un peschereccio tunisino che era venuto a pescare di frodo in Italia, ci sparano, ci speronano. Guardate, io ve la devo dire molto, in questi casi mi spiace non essere in America, in questi casi mi spiace proprio non essere in America. Un peschereccio tunisino che viene in Italia e sperona una come si chiama, gli uomini della Guardia Finanza Italiana, io sapete che fine gli faccio fare? Inizio a mitragliare, lo dico molto, molto sinceramente, si inizia a mitragliare. Cioè, però in realtà, hanno aperto il fuoco, sì, quelli della Guardia di Finanza. Però lui voleva evidentemente sparare all'obiettivo, cioè, capito? Cioè, lui non dice solamente aprire il fuoco così a salve, sì, dare i colpi. Come hanno fatto i Marò? Come sparare hanno fatto i Marò all'obiettivo, sparare all'obiettivo. Beh, ma ragazzi, ma scusate, ma in America, scusate, ma se in America una barca privata di peschereccio, qualsiasi barca, sperona la marina militare. Ma noi siamo l'Italia, grazie a Dio, siamo l'Italia. Alla patria della filosofia, del diritto. Qui è nato Beccaria, non coglioni, è nato Clint Eastwood. Coglioni, è nato Beccaria qui. Cosa stai dicendo? Ma certo, il diritto. Ma perché non ti piace? Perché non ti piace il diritto? Tu dovresti dire noi siamo meglio. Noi siamo meglio di loro. Tu dovresti dire noi siamo meglio di loro. L'orgoglio occidentale, sì, quello di avere lo Stato di diritto, le regole, i tribunali, il rispetto della legge, della legalità, dei diritti umani. Questo è. Una persona in divisa che viene sparato da un pescatore tunisino che sta commettendo un frodo è non legittima difesa, è assurdo che non lo si sia fatto. Si inizia a sparare, perché questo è un atto di guerra contro l'Italia da parte del pescatore tunisino che non solo viene qua ma inizia a sparare nei confronti della nostra Guardia di Finanza. Ma che Stato siamo se possiamo accettare una cosa di questo tipo? Bellissimo il Muslin che ha zittito Parenzo dicendogli ebreo di... Ma bellissimo, com'è che non è inquadrato Parenzo? Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Sono a cena in un ristorante giapponese a Hong Kong, si ordina uno spiedino di porro e maiale e io al cameriere giapponese gli dico che una volta porro era un liberale. Ciao Crux, ho deciso che acquisterò nudi con il bonus cultura. Ottimo, in modo da farti fare questa piscina in Umbria. Incredibile. Molto bene, sì. L'uso privato senza della pudore, radio, senza pudore, esattamente, lo puoi dire forte, senza pudore. Ha messo il proprio culo in copertina, nel risvolto di copertina, quando si apre, compare pure il mio nome vicino al buco del culo e io ti faccio querelare per questo, quando si apre quel libro. È indegno. Bellissima foto della copertina. Posso dirti, è possibile una cosa, ragazzi, ci sarà un uso indegno degno, un uso politico. Privato, un uso privato la trasmissione di questa radio, di questa, allo scopo di vendere il mio libro. Un uso privatissimo, privatissimo. Ma è di vendere tuo culo, no? Nello stesso tempo, a proposito di culi esposti, io non capisco, il motivo per cui uno debba ritenere coraggiosa la copertina di Vanessa incontrata sulla home page, sulla prima pagina di Vanity Fair. Allora, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Primo, l'ha incontrata, che io adoro come protagonista del mondo dello showbiz, non è grassa, diciamolo subito, non è grassa, i grassi sono altri. Tipo Gottardo, certo. Prima di questa cura. Lo ero i grassi io. Lo ero sono io, sì. Altri. Le donne grasse sono altre. Sì, ha un po' di cosce, ha un po' di rotoli sul petto, niente di grave. Cioè, non è che è grassa, obesa. No. Dunque, non c'è nessun coraggio. Qualcuno l'ha insultata sul web. Ma chi è che non viene insultato sul web? Oggi? Vabbè, che c'è? Non è chi è che non viene insultato? Non di cosa mai. Stiamo non parlando? È un buon certo, non è un buon motivo. Ma però. Chi se ne frega? Tutti come vengono insultati. Non bisogna avere coraggio per mettersi in mezzi nudi con le tette coperte. Ci vuole grande coraggio. Ma quale coraggio? Ci vuole grande coraggio. È la monetizzazione di un po' di ciccia come Garco che monetizza il proprio gayismo, il proprio essere omosessuale andando in giro per le televisioni, giustamente, anche in questo oppure, caso. Oppure Cruciani anche, che monetizza. Ma io però non faccio la morale, non dico ho coraggio, no, io dico certo. L'ho fatto per una questione, il libro si chiama Nudi, mi metto nudo pure io. Cosa pensano quello tua non lo mamma so. I tuoi fratelli? Perché metti in imbarazzo un'intera famiglia papalina? Perché? Perché? La mamma dovrebbe imbarazzo. Essere contenta. Ma papalina, sono ha morti fatto tutti. Un figlio con un. Allora, la mamma ha fatto un figlio con un culo morti, bellissimo. Ma sono morti cose. Tutti. Ma perché devi mettere in imbarazzo un casato, tutti, una famiglia? Ma sono morti tutti, una amico sorella, mio. Un fratello. Sono andati una tutti figlia. Al creatore. Perché devi mettere una radio, un'associazione tra le più importanti tutti al che rappresenta. Ma sono chi è andati, al creatore? A casa mia sono andati ma tutti chi? Al creatore. Chi? La Confindustria al creatore. No, ma come no, ti permetti? Ma come ti. Perché metti in imbarazzo tutta questa filiera di struttura? In ultimo anche se faccio vedere il culo, metto in imbarazzo la Confindustria. Ma certo, ma con che faccia loro andranno in giro a dire questo è un nostro collaboratore, guardate che bel culo, guardate che bel culo, è un nostro collaboratore dipendente, no? Sì, scusami, cioè, esatto, pardon. È un'operatore gender, che ha la qualifica di inviato per giunta, inviato è l'unico buco costo al culo, esatto, l'hai detto tu mi hai tolto le intanto parole, ragazzi, è tornato Montanari. Ma perché sei qualificato come inviato a 8.000 euro al mese se non sei mai andato oltre il quarto giaro? Com'è possibile? Com'è possibile? Fermi tutti, Montanari, come sapete, molto osannato dal web, dai negazionisti, sostiene che le mascherine sono dannose, che nessuno ha mai visto il virus e non è mai stato isolato e che il lockdown è una follia e la pandemia non esiste. Andiamo, via Montanari, così siete contenti. Con una roba come questa, attraverso cui passa di tutto, e dall'altra parte vado in acidosi, beh, insomma, non mi faccio un grosso favore. Quindi secondo lei sarebbero inutili? No, non ho mai detto che sono inutili, ho sempre detto che sono dannose. Cosa pensa del distanziamento sociale? Che non ha nessun senso. Se noi ipotizziamo che questo adesso. Virus esista, sì. Per carità, nessuno di noi lo contesta, anche se non l'abbiamo mai visto, chi l'ha detto? Beh, questo mi scusi, però in questo modo sembrerebbe che lei invece neghi l'esistenza di questo virus. Non la sto negando, io dico che nessuno l'ha mai visto, non è stato isolato. Ma ragazzi, ma avete capito il giochetto? Non è stato isolato. Come sì, te. No, ma come me no. Siete voi. Però siete dico, voi. Non è mai stato isolato. Ma credo, ma esiste o non esista? Non lo posso dire, però non è mai stato isolato. Dai, su. Diciamo lockdown. Lockdown è una delle follie più assurde. La pandemia? No, la pandemia non esiste. Non la fa sentire più tranquillo il fatto che io sia distante da lei, abbia una mascherina e che il mio sputacchio, scusi proprio banalmente, non le arrivi in faccia? No, guardi, sono terrorizzato da questa cosa, perché senza il suo sputacchio io non riesco a attivare, non riesco a tenere allenato il mio sistema immunitario, e quindi il suo sputacchio mi è utile. Quindi gradisco il suo sputacchio. Se le venisse il Covid-19 per il mio sputacchio. Il Covid-19 non mi viene. Non le viene. No. Cioè, Montanari gradisce essere sputazzato, devo dire anch'io, da, magari servito, da una gentile signorina, perché tanto il Covid non può venire. Questo apre una grande discussione se le mistress aiutino poi a prevenire il Covid. No, non solo le mistress, apre una grande discussione su lo sputazzo nel sesso in tempi di Covid, si può praticare oppure no? Ovviamente con persone che uno non frequenta, diciamo, quotidianamente. Cioè, negli incontri sporadici, che comunque, se Parenzo permette, continuano ancora, cioè non è che vuoi sconsigliare le persone di scopare con sconosciuti, Davide. Questo ognuno faccia quello che vuole. Tu lo sconsiglieresti, però. Tu lo sconsiglieresti. In un momento come questo, consiglierei di stare con il proprio partner a casa. E magari, se uno invece vuole scopare con una persona che non uno vuole, prenda tutte le precauzioni del caso. E gli sputazzi? Ma ragazzi, se vi volete ammalare, per me non c'è nessun problema. Fatelo. Che problema c'è? Però poi non andate al Servizio Sanitario Nazionale. Poi non andate a bussare a quello che pago anch'io. Che pago anch'io col 45% di tassazione. Pronto? Non andate a spese mie a Ramon da Milano, dimmi. Eccomi, buonasera. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Senti, siamo in macchina con Stefano e Michele, che sono dei miei colleghi, stiamo tornando a Milano in mezzo al traffico. Sì, allora? Abbiamo sentito il signor Parenzo, allora siamo saltati sui sedili. Perché volevamo cosa? Fare una domanda al signor Parenzo. Sì, però andate veloci. Se il signor Parenzo vive in Italia, se il signor Parenzo quanto sta guadagnando in più da quando praticamente è nato il Covid, perché purtroppo lui fa parte 20% di una classe, in meno, 20-30% in meno. Guardi, lei fa parte 20-30. Di una classe di giornalisti, lei fa parte di una classe di giornalisti. 20-30% in meno. Che sta terrorizzando. Amico caro, l'ho risposto. Sto guadagnando il 20-30% in meno, perché non sono dipendente di nessuno. Guardi, fino al 31 di gennaio estendere lo stato di emergenza è una follia e porterà il paese alla rovina. Ma che cosa e vuole la gente da me? Come lei, se fosse onesta intellettualmente, altro che parli di Inghilterra e di America, parli della Svezia, parli della Norvegia. Da chi sei pagato? Dice Ramone, da chi sei pagato? Purtroppo da nessuno. Da chi hai pagato il terrorista? Purtroppo da nessuno. Chi ti paga? Anzi, ho perso il 30% di fatturato. I giornalisti in Italia in questo momento fate pena. Senta, in questo Woodward, ma Woodward, senta qui, amico mio. Non so chi sia Woodward, perché lei è un asino. Questa è gente normale che sa lavora, che cos'è il non giornalisti. Ma cosa c'entra? Siamo in macchina. Non sapere che cos'è il Watergate è ignoranti. Ma cosa vuol dire siamo in macchina? Parli della Svezia. Tre coglioni in macchina, andate a lavorare invece di stare in macchina. Tre imbecilli che chiamano la radio. Ma non dovete telefonare qui, tre imbecilli, andate a lavorare, andate a produrre. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Si vuole parlare al telefono con Zanzara da Fallotto 00240024 oppure si vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo, sei un pistolino imborghesito. Come si può dire che ci vuole coraggio per fare l'immigrato clandestino? Cioè, vai a dire il coraggio che ha il padre di famiglia che si sveglia alle 5 di mattina per andare a spaccarsi il culo per 1200 euro al mese e fa fatica a mantenere anche la famiglia. No, ma tu sei lì nel tuo salottino, servito e riverito. Ma vai a cagare, Parenzo, vai a cagare, culattone. Che dire, ascolto il podcast della Zanzara e in differita vi dico che mi sono innamorata follemente di Francesco da Firenze, che ha asfaltato letteralmente Alberico Lemme. Vi prego, datemi il numero di questo Francesco da Firenze. Oh, ma vi rendete conto quanto cazzo picchia Francesco da Firenze? entra in questa gigantesca gabbia che è la zanzara con la mazza da baseball e spacca tutti. È proprio un mostro, grande Francesco. Francesco da Firenze, leader supremo della maggioranza silenziosa. Avanti tutta, no pasaran. Prossimamente il grande ritorno, Francesco da Firenze contro tutti. Ragazzi, io sento e ascolto e leggo tante cazzate ogni giorno, tante cazzate, comprese quelle che diciamo noi, naturalmente, no? Per carità, non ci tiriamo fuori. Per esempio, sempre i soliti studi che vengono dagli Stati Uniti, da qualche università del cazzo. Sentite questa: gay, lesbiche e bisessuali hanno più probabilità di soffrire di emicrania rispetto agli etero. Ma sentite, penso, questo, secondo l'Università della California, poi è sempre la stessa. Io vorrei capire questi quanto ci guadagnano da questa roba qua. Qualcosa ci guadagneranno, sì, perché sì, non è possibile. Bisogna sempre studi zanzara. Sì, esatto, bravo. Ogni giorno dovremmo tirare fuori delle cose. Centro studi zanzara. Secondo la zanzara, secondo un sondaggio alla zanzara, sì, che ne so, i gay sono più sensibili alla... Ma abbiamolo negli Stati Uniti, pippano di poi più la cocaina, cioè, sì, una cosa del genere. Io voglio fare il presidente del centro studi. Sì, nomino, sì, certo. Vicepresidente Gottardo, non fa un cazzo lì, no, a mano terme. Vicepresidente Mauro da Mantova. Vicepresidente, sì, esatto. Allora, secondo l'Università, esatto, della California, sono più soggette queste persone qua, queste categorie gay, sì, lesbiche, essere, e bisessuali, no, ad avere attacchi di mal di testa a causa delle discriminazioni e del forte, vabbè, livello di stress alle quali sono sottoposte. Per favore, può, ma essere, per favore. No. Le emicranie sono molto più diffuse tra le minoranze, tra cui neri, latini, no, donne. Ma al massimo, se hanno la testiera del letto dura, potrebbero avere le emicranie, ma per altri motivi. Questi, ma che roba, sono, è, dei criminali. Questi sono dei criminali. Università della California sono delle merde, diciamo la verità, sono delle merde. Giuseppe, dimmi. Volevo solo specificare che lo spitting di cui lo spitting, ottimo, sì, lo spitting, giusto, Poli, sì, è lo una pratica di sputarsi addosso durante i rapporti sessuali, sì, si, sì, chiama, sì, spitting, è una pratica del sadomaso bondage, insomma BDSM, sì, ed è abbastanza praticata, ecco. Sì, voglio capire, è unidirezionale o può venire da entrambi i partner? Questo, ma, è il punto. Può venire da entrambi i partner, di solito però c'è uno che riceve e uno che fa, perché, cioè, per esempio, l'uomo che sputa addosso alla donna come dominazione, o meglio ancora la donna che sputa addosso all'uomo. Sì, o anche si può fare, certo, come umiliazione, come pratica di umiliazione, cioè ti sputo, per esempio Parenzo non risponderà. Eccoci, hai qua, mai, ecco, sputato? No, ma adesso però, scusami, hai mai sputato alla tua partner durante un rapporto sessuale, che conosci mio, pure, a e me, io spero, no, che ascolti e che ti quereli partner, aspetto che ti quereli, posso spero dirti che ti quereli, una cosa, posso, ragazzi, posso farvi una confessione, a me, sì, piace parecchio. Beh, a me sputare, piace sputare, sputa, che ti devo dire, sputa, fatti sputare, però non far passare tutto questo, non far passare tutto questo, francamente è abbastanza normale. No, io ti prego, io ti dico fallo, perché sono veramente libertario, mi rappresenti come un bigotto, lo sputato, lo spitting è normale. Sputare in faccia, fatti sputare in faccia, ma non dire che è normale. No, ragazzi, non dirlo, questo non dirlo, lo dico. Gottardo, dammi una mano, questo è normale, farsi sputare o sputare? Ma quello, dai, è un altro matto. Non è normale, no, non è normale neanche per me, meno farsi male, sputare meno addosso male, non è normale meno neanche male, a me, ragazzi, non è capitato, ma come cazzo siete nemmeno a me, ma ragazzi, meno male, cioè tu non hai mai male sputato una donna? No, no, no, non mi permetterei mai. Ma quando hai una donna è davanti a te e per umiliarla sessualmente, ma naturalmente, perché gli sputi addosso, gli, ma sputi in faccia, o sputi la sulla vagina, ma dove la cazzo sculazzi siete vissuti? Ma fermo. Ma come avete campato finora? Lo sputo sulla vagina è tutto un altro discorso. Sì, d'accordo, hai ragione, lasciamo perdere quello. Stiamo parlando dello sputo in faccia. Va bene, d'accordo, stiamo parlando dello sputo in faccia per umiliazione. No, e no. Fermi tutti. Dopo non so quanto tempo, Lucia da Pordenone. Porca. Oddio, che è successo? Lucia, dimmi. Dimmi, amore mio. Tesoro, okay, mi hai chiamato io tu. Io sputerei, dimmi, in faccia a Parenzo. Ma perché? Perché motivo? Ma voglio capire, cioè, perché questa vecchia ex baldracca deve telefonare qui e insultarmi? No, non ho capito, calma, perché. Calma, calma, perché? Calma, perché calma, baldracca? Vecchia, perché ex baldracca? Vecchia sarai David tu. Vecchia no, perché è giovane, ha poco più di 60 anni, giusto Lucia? 63 anni. Baldracca non è un'offesa. Ma io sono baldracca, Non ex. è Baldracca, attuale Baldracca di 63 anni, sempre di Codroipo. Però ci deve essere un motivo per il quale tu chiami, Lucia, altrimenti non avresti chiamato, non ti saresti scomodata dall'alto, amore, del tuo... Che c'è, tesoro? Dimmi, che è successo? Sono a piedi. Di nuovo, no, amica, ma di nuovo. No, ti giuro. Ma che è successo stavolta? Dal 7 agosto che sono a piedi. Ah, dal 7 agosto sei a piedi, praticamente non sono sei... Sono viva per miracolo. Di nuovo, sei... a te succede sempre tutto, il camper brucia. Sempre, esatto, uno muore mentre gli fai una pompa. Diciamocelo chiaramente, è una roba incredibile, dai. Che è successo? Che o è una porta nera di primo livello? Se mi danno un camper del 15-18, sì, quanto può durare? Io tu l'ho preso tra, perché era agli estremi. Sì, eri agli estremi, in che senso? È dell'85. Il camper dell'85. Adesso non si trovano i pezzi. Sì, cioè, non ho capito, ma che ti è successo per aver rischiato la via? Spiegami, che ti è successo in particolare? Si è rotto il semiasse. Il semiasse, dunque, che cosa hai fatto? Stavi guidando? È andata giù, sì, stavo guidando, è andata giù una gomma. Sì, allora? Praticamente la gomma era piegata. Sì. Io sentivo un odore di bruciato. Sì, e beh. Però io ho detto, devo andare a casa, devo andare a casa, devo andare a casa. Sì. Il padrone, quello vicino di casa mia, fa, dice, ma Lucia, hai visto cosa stai la gomma? Era la gomma piegata in due. E allora? Allora sono viva per miracolo. Cioè, hai fatto detto, ma... sei andata fuori strada col camper praticamente. No, non sono andata fuori strada, sono arrivata diretta a casa. Ho capito. Sempre con questo odore di bruciato che avevo dentro. E adesso è inutilizzabile il camper, non si può più utilizzare. Non si può utilizzare. Questo semiasse, che marca è sto camper? Cerchiamo di attivare un po'. Ford, dimmi un dell'85. Po'. Dell'85. Un Ford dell'85. Ragazzi, serve un semiasse. Una volta abbiamo fatto la colletta, una volta abbiamo fatto questo. Adesso non è che vediamo se c'è qualcuno che ha un semiasse, non si trova più il pezzo. E che fai dal 7 agosto? Come fai a battere? Come fai a battere dal 7 in agosto? In autostop. Come in autostop? Che vuol dire in autostop? In autostop. Cioè per strada così con la... C'è un finocchio che mi porta. Un finocchio che ti porta? Fino al posto. Ah, ma che ambiente? Che vuol dire un finocchio? Scusa, un finocchio. Sì, un finocchio che fa questo lavoro mio. Ma che vuol dire un finocchio? Cosa vuol dire? Un gay. Ah, un gay. Ma un finocchio, armata, sì. Branca Leone, naturalmente, cioè, si potrebbe fare un grande format, naturalmente. Naturalmente, no. Un finocchio che porta la vecchia Baldracca. Quello funziona. Come dice tu. No. Ma guarda che lui è più vecchio di me, eh. Ah, questo funziona, ma pure lui naturale. Fa le marchette, pure lui fa le marchette sto finocchio? Sì. Mamma mia, sembra un film di Mario Monicelli, però scusami se arrivano i mostri, cioè, cazzo. Parenzo, riassumi il quadro, riassumi il quadro. Chiama alla radio della Confindustria e chiedo scusa se pronunzio questo numero 1927, una nota ex Baldracca, no, che dice di fare la prostituta, no, vecchia rintronata che vive in un camper alla qua che gli hanno, una volta gliel'hanno bruciato, un'altra volta l'hanno picchiata, un'altra volta è caduta, un'altra volta non arrivano i clienti. Oggi ci aggiorna sul fatto che viene accompagnata, non si sa, a fare cose da un altro vecchio omosessuale, macchettaro per lui. In faccia, guarda. Giusto, ma giusto. Io ho capito perché lei, signora. Sì, perché ma la tratti è lei che descrive male, questo la tratti quadro. Come una vecchia Baldracca. Ma, no, ma perché mi devi sempre offendere, Parenzo? Ma come offendere? L'ha detto lei che è una prostituta. Ma guardato tu quando facevi ma guarda che sei brutto quanto la fame è meglio. No, quando facevi in onda, quando facevi in onda, io ti guardavo. Certo che guardavo. No, lei non le impongo di non guardare la 7. Mi fa questo favore, perciò guardi la 4. No, io guardo la 7. Lei deve, non devi essere tu. Lei distrugge il marchio. No, guardi rete 4. Lei non deve guardare la 7. Guardi rete 4. No, io guardo la 7, ma la 7 non è tua, la 7 non è tua. Ma questo ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Le faccio questa preghiera. Se la 7 è tua, no, ti è giuro mia, che non lo guardo più. Non è mia, non è mia. Ecco, scusami un attimo, Lucia, però è importante. Brutto quanto la fame. E telese, come lo consideri telese? Telese è bellissimo. No, beh, adesso bellissimo. Bellissimo, insomma, è simpatico. Ecco, appunto, quello è vero. Te lo darei gratis. Glielo daresti gratis a te. Sarà felice il dottor Telese. Sarà felice. Dunque, Lucia da Pordenone darebbe gratis la sua figa, un po', diciamo, stagionata, ma sempre viva. No, è bella. Beh, no, sai. Adesso, lo dicono tutti che è bella. Cioè, a 63 anni è ancora la figa viva, vive e vegeta, ancora profumata, dici. Profumata pulsa, non... ancora, pulsa. Pulsa, interessante, questo pulsa ancora. Allora, la Tina Turner, la Tina Turner di Pordenone è rimasta senza camper per l'ennesima volta. La cosa fondamentale da dire è questa: dal 7 agosto, quanti clienti hai fatto per capire? Ma neanche uno. Ma neanche uno dal 7 agosto? Ma ti credo, non l'ha mai fatto neanche uno. La teoria sono anni che non ne fa neanche uno. No, ma perché mi vedono sulla seggiolina. E allora? Dicono questa poveretta e vanno diritto. Esatto, cosa ho detto io prima? Prima avevo le pannocchie. Ma vedi, adesso sono tagliate le pannocchie, non mi vedono. Mi vedono, sì, ma dicono: ma cosa vuole questo? No, la vedono e accelerano. Ti vedono e accelerano. No, possiamo in conclusione di questo collegamento in cui invito qualcuno a fornire sto semiasse di un camper Ford, eccetera, se ci fosse una buona anima, un volontario, eccetera. Posso dirti una cosa? Vogliamo ricordare? Sì, camper dell'85. Possiamo ricordare? Scusa, io voglio cambiare camper. Sì, d'accordo, va bene, adesso questo è un altro discorso. Vogliamo ricordare agli ascoltatori qual è la tua specialità? Cioè, perché qualcuno, qualche cliente deve... Innanzitutto, dove stai battendo in questo momento? Facciamo un po' di promozione della prossima parte. No, ho capito, stai per strada. Io con l'Oipo. Sì, ma e non dove? Non posso andare a Conegliano perché non c'ho la macchina. Ma dove stai allora a battere per strada? Mi hai detto che batti per strada, dove? Sì, sempre lì al mio posto. Ok, d'accordo, dalle parti di Codroipo. Sì. Qual è la tua specialità? Perché un cliente... Ma guarda che anche i vigili di Codroipo sentono la radio. Sì, me lo so, è che non lo so. Ma non ho capito, spiegami una cosa. Che cos'è? Perché un cliente dovrebbe venire da te? Che cos'è che fai? Io li accontento bene. Ho capito, ma come? In che modo? Cioè, come? Fai anche i pompini coperti, hai detto? Sì, sempre, tutto coperto. Ma ho capito, tutto coperto. Uno perché dovrebbe venire con una di 63 anni con tutto coperto, cazzo? Perché? Ripeto. Scusami, ma che devo prendere malattie per loro? Ma ho capito, allora perché qualcuno dovrebbe venire... Ma adesso che c'è, come si chiama questo coronavirus? Non hai paura del coronavirus? Io c'ho paura, però non c'è lavoro. Non c'è lavoro, questo non si capisce. Non c'è lavoro. Ciao, coronavirus. Ma non c'è mai stato ciao, lavoro, perché non è il problema del coronavirus. Ciao, amica mia, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Cruciani e Gottalardo, negazionisti del cazzo. Vediamo cosa direte quando finirete in terapia intensiva. Anzi, non direte niente perché non riuscirete neanche a parlare. Negazionisti. Ma Gottardo ha trovato un animalista che gliela dà, che adesso è improvvisamente contro la caccia. Ce lo ricordiamo tutti quando tesseva le lodi della grigliata di orso. Ce lo ricordiamo tutti. Allora, io non sono contro la caccia, sono contro i cacciatori che invadono i campi dei poveri cristi che si trovano derubati delle galline, che si trovano inquinati dai bossoli che neanche raccolgono, e con questi quattro stronzi che sparano vicino alle case verranno puniti. Ma dai, ma che roba è? Perché uno che spara vicino alle case, uno che spara vicino alle case alle 6 di mattina è uno stronzo. Ma uno spara allora, fermi tutti. In questi giorni sul web, non solo, c'è una diatriba tra uno scrittore, Massimiliano Parente, e una scrittrice, diciamo così, direbbe Feltri, una scrittrice. Beh, certo, Michela Murgia. Posso dire una cosa? Quando Michela Murgia insulta, per esempio, Salvini, nessuno dice un cazzo. Ma come quando insulta? Dice, c'ha il sugo che gli esce dalla bocca, eccetera. Non è un nessuno insulto, dice un cazzo. Non lo quando lei riceve degli insulti, tutto lì a dire sessismo, per il suo fisico. Eccetera. Certo. Ma chi la insulta per il suo fisico? Ma politica. Gli altri la attaccano per il suo fisico, che è una immondizia pura di attaccare una persona per il fisico. Ma anche a me dicono ciccione di merda, me l'hai detto anche tu. Calma. Ma non è che l'ho detto bonariamente. Siccome poi a un certo punto, nel mezzo di questa polemica, la signora Murgia ha detto bisogna boicottare, o comunque chi per lei ha detto bisogna boicottare i libri di Parente. Lui ha risposto in un modo secondo me geniale: sono più femmina, tra le altre cose, sono più femmina io della Murgia. Più femmina io della brutto, Murgia. Ma che brutto, ma quale brutto? Molto brutto. Massimiliano, ci sei? Sì, ci sono, sì. Allora, ma che vuol dire io sono più femmina della Murgia? Non ho capito. Ma chi è che dice che è brutto? Parenzo. Brutto. Ti pareva. Perché brutto? Da gran maleducato. Perché? Perché è un attacco gratuito da gran maleducato, peraltro. Come dire che tu sei più bello di lei, come dire che hai avuto tu più uomini o donne di lei, non lo so. Ma certo, no, perché come certo cosa? Il concetto di identità di genere, io mi sento più femmina della Murgia, per cui non mi fare mansplaining, per favore. Non ho capito, perché ti senti più femmina della Murgia? Spiegamelo un po'. Perché sono, perché il concetto di identità di genere è quello che uno si sente, quello che è. Io sono stato anche femmina. Sì. Vabbè, tu puoi essere quello che vuoi. Ma certo che posso essere quello, quello che vuoi, te lo autodici da solo, ma è offensivo detto nei confronti della Murgia, quasi a dire che tu sei più femmina perché sei più bello di lei, quindi è una sciocchezza. No, non ho detto che sono più bello. Beh, il sottotesto è quello. Sono sicuramente più troia di lei, questo il sì. Sottotesto è ma quello. Ma in che senso sei più troia? Più troia di lei è interessante. Vedi che tu, lui attribuisce alla parola troia, tra l'altro, un significato non necessariamente negativo. Io lo sostengo da tempo. No. Io sostengo il fatto che la parola troia può essere detta tranquillamente. No, no, io ti dico, quando io dico sei una troia, tra l'altro, molte donne che si sentono apostrofare in questo modo non hanno nulla da dire. Siamo noi che trasformiamo questa parola in insulto. Se tu vedi una per strada e glielo dici così, quella ti dà una sberla, ma giustamente, perché la insulti. Dipende dal contesto, no? Ma se io dico una, secondo me sei una gran troia, se lei si offende, ma ti dà una sberla perché siamo ancora dentro quella cultura patriarcale maschilista. Giusto. Che loro vogliono. Giusto. Se invece troia fosse un complimento, come a me dicono puttaniere, nessun maschio si offende. Che c'è? Ma se io dico che sei un coglione, non sei contento se io dico che sei un coglione, scusa. Ma non è la stessa cosa. Ma non è mica la stessa cosa coglione con troia. Ma come no? Ma offendi una persona. Lorenzo, se mi dici che sono un coglione, io non faccio un boicottaggio per non farti più lavorare a Radio 24, stai tranquillo. Sì, ma io non faccio boicottaggi per nessuno, quindi non mi interessa. No, allora dico solo che sei un gran maleducato, fine, non c'è boicottaggio di niente. Se dovessi schiare contro un branco che scrive al mio editore, scrive sul mio Instagram, insulta mia figlia, insulta me, quando io ho insultato solo una persona e non l'ho insultata in quanto donna. Appunto, l'hai insultata, vedi che riconosci, l'hai insultata. Lui ha insultato le a sue me posizioni, quando è capitato di insultare ho chiesto insultato, scusa ho quando insulta, mi ho insultato le posizioni di chi dice che ogni maschio è come se fosse figlio di un mafioso, è come dire che ogni maschio è uno stupratore, col cazzo. Scusami un attimo, quando tu dici di essere più troia della Murgia, cosa significa? Beh, sono sicuramente più libero, più libertino di queste ma che suore. Ne sai? Non, di queste, ma beh, leggo quello che scrive, tu non leggi un cazzo, ma leggi suora? Quello che scrive. Ma è una suora? Suora, è una suora, è una suora dell'Azione Cattolica. Come che vuole fa portare questa qui non, quindi forse non vi siete accorti di una cosa, che questo non è il femminismo, questo è un odio verso i maschi, è una misandria, non c'è la misoginia, sono loro misantiche. Misandri, come cazzo si dice? Ma quando uno vuole sostituire la parola patria con la parola matria, è evidente che c'è un problema, no? C'è un problema che ma dai, è una follia, no? C'è no uno che, vuole... tra l'altro è la madre patria, per cui non si capisce cosa diventerebbe il padre matria, oppure vogliono solo la matria. Senti, io voglio capire però da te un'altra cosa. Qualcuno ha parlato di coraggio sì. A proposito della copertina della Incontrada. Beh, certo. Mezza nuda con un po' di ciccia di fuori. Ora, se quello è coraggio, io sono Gengis Khan. Perché il coraggio, che cazzo c'entra il coraggio? Il coraggio non c'entra una sega. Lei è una privilegiata rispetto ad altre persone. Se la insultano su web, sti cazzi, è tutta pubblicità. Terzo, si monetizza pure la ciccia, un po' di ciccia, che tra l'altro non è manco una roba drammatica. Forse tu sei addirittura più grasso di lei. Io non lo so adesso come ti hai messo tu. Io sì, non mi prenderebbero mai per fare una copertina di Maggi Ferro, gli faccio schifo. Se lo dice da solo, quindi. Ma ho capito, ma se si fa schifo, si fa schifo. D'accordo, ma qual è il problema? Cioè, il problema qual è? Perché dov'è il coraggio? Parenzo contesta pure se uno si fa schifo, non ho capito. No, quello mi fa piacere che riconosci i tuoi limiti, quello va benissimo. Non mi permetto di dirlo io, ma lo dici tu, è una bella presa d'atto di quello che sei, e va bene. Ma perché non me ne frega un cazzo, a me non sono una narcisista che sto lì a guardarmi, non me ne frega niente, capito? Non è che se uno mi dice testa di cazzo, io faccio il boicottaggio, oppure. Cioè, mi sorprende che tu, Parenzo, che ti vanti tanto di essere antifascista, certo, libertario, antifascista libertario, contro un branco che chiede il boicottaggio di uno ed esprime solidarietà. Una volta tu hai scritto, per una volta tu, Massimiliano, hai scritto: bisogna sostituire per legge la parola patriarcale cazzo con la parola murgia. Mi hai rotto la murgia, fatti la murgia tua. Che murgia vuoi? Che murgia dici? Non hai capito una murgia? Esatto, mi stai sulla murgia? Esatto. Succhiami la murgia, testa di murgia. Cioè, hai affiancato la parola cazzo alla parola murgia. Sì, ma non in senso, voglio dire, che è un insulto questo, Parenzo? Che cos'è? Un insulto? Dai, già ha giocato con le parole, no? Ha giocato attribuendo ma che alla parola basta murgia. Basta questa cosa di sessismo, è una puttanata la parola. Sessismo, non è che il sessismo. Che... Il sessismo esiste, ma intanto, che esiste, ma non rompete i coglioni. Allora, Parenzo, la prima levata di scudi contro di me c'è stata perché io ho fatto un articolo contro una tizia che legge solo libri di donne, si dice l'ha scritto una femmina, e fa parte di tutto questo gruppetto, qui ci sono la Murgia, Chiara Valerio, eccetera, che portano avanti solo le donne. Secondo me questa cosa qui non sminuisce la causa delle donne, perché tu devi portare avanti il valore, il merito, non l'essere donna o l'essere non uomo, la quota donna, l'essere... non la quota donna. No, comunque no. Ragazzi, la cosa fondamentale è questa: ti senti più troia della Murgia, mi sembra. Vabbè. Una frase fondamentale, e la parola troia non è una cosa negativa. Non è una parolaccia, no, non è una parolaccia, anzi, chi se vista, chi la vede come una parolaccia è un maschilista. Ciao, ciao amico mio, ciao, ciao, ciao, ciao. Carlo da Losanna, Carlo da Losanna, vai, vai, Carlo, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Oh, mi senti, cosa? Ti sento, Carlo, dimmi. Che cazzo, dai, vabbè. Dimmi. Intanto, comunque, la diretta è una cazzo di agonia, borsa, traffico, vabbè. Comunque, la diretta è un'agonia, hai ragione, viva il podcast, vai, dimmi. Una cosa, volevo parlare un attimo della circoncisione, che avete detto, un bel po' di inesattezze. Ma guarda che non parliamo di circoncisione da una vita, cioè, non sì, male. Sì, cioè, vabbè, comunque. Ma non parliamo di circoncisione da una vita, dunque, di che parliamo, dai. Va bene, allora, prima cosa, la circoncisione, si toglie il filetto, un sacco di casi, il filetto non si toglie, sta lì, si toglie la pelle. Non sento una sega, Michele da Bari, vai. Michele da Bari, non si sente una sega. Michele, dimmi. Sì, mi senti? Cioè? Sì, ti sento, Michele, dimmi. Senti, io ho soltanto una domanda da fare. Ma io sono un ex detenuto, quindi non so che cosa vuol dire fare un reato e quant'altro. Ma ex detenuto, ottimo. Bene, sì, grazie sempre, per aver chiamato. Sempre ben accolti qui gli ex detenuti, è pieno di ex detenuti. Tra l'altro ci sentiamo spesso, chiamo spesso, sempre ma per grazie, droga. Grazie, sempre droga, cioè, sempre droga. Sì, ma io vorrei capire una cosa, no? Sì. Ma per quale motivo in un paese come l'Italia, dove c'è la legge sulla legittima difesa che tanto è costato approvare, sì, no? Sì, sì. E dove un comune cittadino potrebbe uccidere un ladro e quindi rischia di essere ucciso, allora? A sua volta, per quale motivo se degli stranieri su un barcone tamponano una vedetta, una motovedetta della Guardia di Finanza, si deve sparare qualche colpo di intimidazione? Perché tu cosa faresti? Lì vanno fatti bersaglio di arma da fuoco, gli stessi scafisti, lo stesso mezzo, senza sparare contro il peschereccio, esattamente mi permetta, come dice signore Porro, criminale, esattamente come dice Porro. Quindi abbiamo un ex criminale o criminale che dà ragione a Porro, e questo è il primo dato della giornata. Ma e va benissimo. Ascoltami, decerebrato, non si tratta di essere ex criminali pure, o decerebrato, meno. Pure, grazie. Si tratta semplicemente di difendere. Quanto ha fatto il di galera paese. Lei? Eccolo qua, un altro. Cosa vota lei? Lega? Il sovranista? Io guardo Giuliano, il carcerato sovranista. E Porro. Beh. Oh, me lo ripeta ancora. Io carcerato sono fiero, non guardo né la sette né i tuoi amici. Grazie. Guardo Giordano, Del Debbio e Porro. E lei cosa fa nella... Grazie. Cosa fa lei nella vita? Io nella vita, in questo momento, è stato in carcere. Non posso fare nulla. Benissimo. È in carcere, è stato in carcere. Guarda, per quale reato? Comunque tu sei incredibile. No, no. Droga, ma dico droga, evviva. Droga. Per cosa? Droga, per spaccio di droga. Scusami, questo è stato arrestato per droga e difende la Guardia di Finanza. Dovrebbero essere i suoi mortali nemici, mi scusi. No, ascoltami, non devi essere ottuso nelle tue considerazioni. Ma quello si è ripreso. Trafica droga, difende i finanziari. No, io non traffico nulla, io sono stato sbagliato nella mia vita, ho pagato il mio errore. Quanti chili erano, amico nostro? Non si tratta di chili, si tratta di una quantità. Di una quantità, ho fatto quasi 3 anni di carcere. Tre però anni, essere non li fai per netto. Gottardo, vedi, tu stai attestando la tua idiozia parlando perché? In questo modo, perché essere ottusi dichiarando inimicizia alle forze dell'ordine solo perché sei stato in carcere. Ma tu sei contento di quelli che ti hanno arrestato? Ringrazio i poliziotti, i carabinieri. Ma ha fatto 3 anni, lasciatelo perdere, è stato 3 anni in galera. Scusami, dai. Ciao Michele, ti saluto Michele. Ti devo salutare Michele, ciao. Allora ragazzi, grande ritorno con noi dello specialista del punto G, grande puttaniere ormai in età avanzata ma sempre sull'attenti della costa tirrenica, diciamo così, Maurizio Candidi, che abbiamo scoperto essere però anche un cacciatore. Attenzione Maurizio, buonasera, ciao. Ciao Giuseppe, buona serata a tutti voi. Allora vai subito a rompere i coglioni a Gottardo su questa storia. No, Gottardo mi fa cazzare, scusa, mi fa cazzare perché io vengo a Milano, non metto a terra a 90 calma. Gradi, gli rimbocco le emorroidi. Dimmi. Addirittura. Guarda che quello con le emorroidi è Cruciani. Sì, no, te li rimbocco a te, Gottardo. Dimmi Gottardo, dimmi. Io ti rispetto, sei una persona intelligente in gamba, però quando parli di caccia bisogna sapere le cose. Cioè, dimmi. Perché la caccia è una passione talmente innata dentro di noi. Se tu mi dicessi perché vai a caccia... Fatti la casa tua, allora, fatti la casa tua, no, nei tuoi campi. Attenzione, aspetta, Maurizio, specifichiamo una cosa. Ma noi abbiamo l'autorizzazione dello Stato, ma è sbagliato, che ce lo permette. È sbagliato. Allora, è una cosa sbagliata. Ma scusa, rifatti alla legge, no? Che cazzo ci sei? Sì, infatti ho votato sì alla legge che voleva, al referendum che voleva abrogare quella legge. Allora, come aspetta, il 90% delle persone, scusa, che sono Maurizio, aspetta un attimo, Maurizio, fermo un attimo, adesso non scendiamo nelle cose perché sembra un avvocaticchio ormai, Gottardo. La questione è un'altra. No, non è un avvocaticchio. Calma, cacciatori hanno rotto i coglioni. Se io ho un campo, ho il diritto di non vederlo calpestato dai cacciatori. Maurizio, oltre a fare il gigolò, tu sei anche un cacciatore, dunque con l'apertura della stagione della caccia hai ripreso a cacciare pure tu. Ma certo, io ho 50 anni e caccio, siamo le persone più rispettate in tutto il mondo. Che cosa cacci tu? Cosa cacci? Una parola detta male ci tolgono un porto d'armi. Voglio vedere questi animalisti ambientalisti quanti processi ci vanno da fa con le prefetture e le questure. Noi siamo 800.000 cacciatori, non bracconieri, cacciatori, si rispetta la natura, si rispetta la fauna selvatica. Ma cos'è che cacci? Cos'è che cacci tu, Maurizio? Io faccio la migratoria. Faccio tordi, colombi e beccati. Ne ha miliardi in altre nazioni vengono sterminati con i gas perché fanno danno all'agricoltura. Ma sa una sega, Gottardo. Ma non sa un cazzo, figuriamoci. Fermo, fatto che rompi i coglioni la gente. Allora, Maurizio, a che ora vai a sparare? A che ora vai a sparare la mattina? Io mazzo alle 5. Pensa poveretti quelli che sentono le tue schioppettate alle 6 della mattina. Sarà piacevole, no? Sì, sentire i colpi di fucile prima dell'alba. Ma guarda, è una rottura di coglioni. Scusami, Gottardo, scusami, io ti so nel cuore, no? Allora, facciamo un altro referendum. Diciamo allo Stato, siccome prendono soldi, lo sai quanto paghiamo noi all'anno, cacciatore? 500.000 euro ci hanno rinchiuso nei campi di concentramento. Addirittura. Perché noi abbiamo le ATC. Le ATC sono un perifero di scusami, Maurizio, ma dimmi te, qual è il paragone che tu puoi fare tra la tua grande attività, che è quella amatoria, e la caccia? Che paragone si può fare? La mia amatoria di fica? Eh sì, qual è la cosa? Qual è guarda, ascoltami, se a me mi dicessero, io siccome la fica ce l'ho quanta me ne pare, preferisci fare un bel rapporto sessuale con Belen, oppure ammazzo 100 tordi? Io vado a ammazzare 100 tordi perché di fico mi pare ce l'ho quanta me ne pare. Ma scusa, tra togliere la caccia e togliere la figa, tu che cos'è che... no? Sarei molto indeciso. Molto indeciso. Sarei molto indeciso perché la passione della caccia è come la passione della fica. Se levate la fica alla gente maschio, no, come Parenzo, come Gottardo. Non so nemmeno se è maschio o qualche altra cosa, perché cacciatori siamo maschi. Non siamo ambientalisti, animalisti, vegani, mangiano le verdurine e ogni salizza più per niente. Noi siamo come Rambo, vestiti in medici, a cazzorito dalla mattina fino alla sera si va letto. Fermi tutti. Fermi, in mezzo alla natura. Fermi tutti, Mori. Aspetta un attimo, Mori. Daniela, ci sei? Sì. Daniela Martani, eccoci qui. Purtroppo ho dovuto ascoltare queste due scombinati. Zitto un attimo. Allora, intanto ecco, vedi che quando noi diciamo che i cacciatori non scopano, ecco, lui l'ha confermato, perché uno che ti dice io preferirei ammazzare 100 tordi piuttosto che andare con Belen è un pazzo, cioè vuol dire che è uno che non tromba. Parla in toscano, dai, parla in toscano lui, pure ha un accento toscano. Ma che toscano, è un analfabeta. Poi appunto, vedi, questi si sentono fighi, si sente Rambo, pensa te, questo si sente Rambo perché ha in braccio un fucile e va a ammazzare dei poveri uccellini piccolissimi fra l'altro, che non possono voi, difendersi, a voi che non animalisti vi dispiace perché vi si ammazza gli uccelli, voi vi si ammazza gli uccelli, siete disperate, capito, poverine. No, vabbè, adesso perché siete contro la caccia. Vabbè, adesso questo è un paragone assurdo, cioè ammazzate gli uccelli. Allora, no, uccelli ammazza. Ma tu sei mai stato con una vegana? Sei mai stato con una vegana, Mori? Ma voglia se ci sono due vegane. Le vegane, ascoltami, oltre le vegane, sono tutte mezze bizze, mi mancano le proteine e sessualmente sono depresse, dovrebbero mangiare più selvaggina, più fagiani, più cinghiali, più caprioli. Ma perché sono depresse sessualmente le vegane? Spiegami. Ma perché con la verdura, il cazzo ti dà la verdura, le proteine c'ha, quando vanno a letto le spatacchi 10 minuti mi vogliono dire, sono bella gamba all'aria. Ma a me mi ci vuole uno che mi ci stia 2-3 ore a letto, no una che si stanca subito, se gli dà le proteine alla carne, con l'insalata mangi poco. Cioè tu dici che ma che ti tocca? Lo sa vegetariani se ci vuole? Dei belli zucchini, dove dico io, allora stanno bene. Scusa, ma chi ti tocca? Sono in onda, non capisco, sì, perché sì, linea. Sì, no, capito, Daniela, ma perché chi ti tocca? Ma te, manco se mi dai 1 miliardo di euro, ma sai, ma hai pagata manco 1 miliardo. Ma chi ci viene con te? Ma chi ci viene con te? Tu puzzi di morte, io, capisci? Io ti vorrei tu puzzi ogni letto, giorno, io torni, puzzi di morte. Io ti vorrei chi ti vedere vuole letto, toccare? Che cosa sei buona a fare? Hai un poveretto che non c'hai un cazzo da fare tutto il giorno, capito? Perché uno che ti sveglia avanti, abbiamo visto di svegliarsi alle 5 di mattina per andare a ammazzare dei poveri animali innocenti che non si possono difendere, che non hanno la possibilità di spararti in testa pure a te, capisci? Perché se avessero il fucile pure loro, allora vorrei vedere insomma che cosa succede, chi la vince, no? Ma tu sei uno sfigato perché vai ad ammazzare animali che non hanno la possibilità di fare quello che fai tu e di difendersi sullo stesso piano, capito? Ma tu ti vedi lì che io non so che cosa gli è successo, caro Gottardo. Voi andate a rompere il cazzo alla gente che si va a fare le passeggiate nei boschi con il rischio di prendersi una pallottola per colpa vostra, hai capito? Ma non è vero, cazzo, perché ci sono migliaia di me, ascoltami, c'è almeno 150 persone che vengono ammazzate da voi. Dai via la bocca senza sapere le leggi sulla caccia, c'è migliaia di clausole che vanno rispettate alle distanze da parte, le distanze dalle case. Ma scusa, c'è perché pensi dal momento, scusa Maurizio, perché questo lo sappiamo, perché pensi che le vegane o le vegetariane, le donne vegane abbiano meno carica sessuale? Spiegami. Ascolta, a caso ho provato io le vegane quando stanno qui, quando ci vado a letto, no, le metto a scoscia galletto, io parlo così, tanto parlo tra il mare in mano, a gamba aperta, scoscia galletto. Quando io li stanno per raggiungere l'orgasmo, no, queste vegane, gli dico, quando stanno per venire, glielo levo, e loro dicono, no, dammelo, se vuoi, lui glielo scasso, no, l'uccello dimmi, e lui dico, no, l'uccello, allora lo vuoi. E sei animalista, allora si gabba l'uccello. Allora loro lì, loro a quel punto si fermano e mamma mia, Daniela lo considererà un volgare sicuramente, una bestia. Sì, ma non ci può essere una figa. Ma questo figura, si prende qualche droga, perché se l'ha stagnato, lo tocca manco pagare oro, te lo dico io. La negata comunque cucina i vegani, non ci vanno quei cacciatori, quindi scordatelo proprio, te lo stai inventando sta roba. Tu devi andare a pagare le donne, perché una donna con te non ci vuole venire, capisci? Una donna normale, di mente, a te non ti tocca manco ma con questo un dito. È un gigolò, però paga lui, lo paga noi per andare lui è un gigolò, guarda, mandatemi, vi prego, mandatemi una foto perché lo voglio vedere, se vedi una foto ti masturbi, amore. Ma questo cosa dice? Questo può essere. Non mi masturbo neanche la foto di Richard Gere, quindi figurati se mi masturbo quella tua. Cioè, questo posso dire, posso dire, caro Maurizio, posso dire che è molto difficile la signora Martani si masturbi con una tua foto. A proposito, posso fare una domanda a Daniela Martani? È finito il digiuno, Daniela? Quale digiuno? Quale digiuno? Ancora no, questo digiuno sessuale, parla sempre le stesse cose. Fermi tutti, ciao Maurizio, aspetta Daniela, fermati lì, fermo. Ciao. La zanzara. Grande Gottardone mio contro la caccia, bellissimo, ti voglio bene, sei il mio nuovo numero uno. Adesso aspetto lo scontro Gottardo Martani contro quegli sfigati di Parenzo e Cruciani. Merde, siete finiti, il futuro è il cibo vegetale. Avanti tutta! Allora andiamo con Gianni da Bari, vai Gianni, vai, sempre con noi, Daniela Martani in collegamento da Roma, sempre da Roma, in sede Radio 24, Sole 24 Ore, lo pronuncio. Buonasera, Parenzo, amici. Lo pronuncio male. David Parenzo e ovviamente Abano Terme, Abano Terme, ma Alberto Gottardo. Fino a quando starai, piccola marchetta, fino a quando starai ospite in questo hotel? Fino ma chi a quando? Se ne frega? Plaza, cioè, al Plaza di Abano fino a Natale. Ma tu fino ti rendi conto? Cioè schifo. Hai fatto settembre, ottobre, novembre, sì, dicembre, certo. Fatto, no, quattro mesi, sì. Quattro mesi? Punto ospite in albergo. Vabbè, che cazzo vuoi? Punto, scusa, uscire con 16 kg in meno. No, ma tutto gratis, peraltro. Cioè, la cosa no, vabbè, no, pazzesco, no. Vergognoso. Retribuito addirittura. Gianni da Bari, vai Gianni, pazzesco, vai. Lo paghi una bella vita con la vegana che mangia piselli. Io volevo insultare Parenzo. No, no, i vegani non mangiano piselli, hanno queste battute da deficienti. Voglio insultare Parenzo perché è un cazzo pieno d'acqua che è a favore dei vaccini. Non bisogna essere così estremista. Con chi parliamo? Un momento. Attenzione, fermi tutti. Gianni da Bari contro i vaccini. Fermi, Gianni, mi di capire, da no? Bari. Gianni da Bari contro i vaccini. Il quale chiama e vuole, dice, insultare Parenzo, è corretto? Sì, mi certo, sembra certo, certo. Correttissimo, corretto. Perché? Chiedo, perché? In quale altra trasmissione al mondo un ascoltatore qualunque, diciamo un idiota, telefona e dice voglio insultare uno dei conduttori? In quale altro avviene contesto qui, ovviamente, è possibile? Avviene... Ecco, è un motivo sufficiente per tenere aperta sta baracca questo? Già essendo a favore dei vaccini stai insultando la popolazione. Ma che vuol dire la fobia sociale? Stai solo seminando terrore, coglione. Tu non ho capito, Gianni, che cos'è che a tuo padre quando si fece il vaccino contro non so dicendo il vaiolo, che non esiste, ma il non vaiolo, neanche così il estremista. Vaiolo, vaccino obbligatorio, quello contro il vaiolo, cretino. Non sto dicendo che non esiste, non bisogna seminare la fobia sociale. Non c'è nessuna fobia. Ma come no? Stanno seminando il terrore. Burioni ha detto, che no, tornerà all'inferno. Martani, aiutami no. Tu su questa cosa, su, dai. No, vabbè, veramente non ho parole più per parlare di questa vicenda. Allora, ieri, no, cari Cruciani, Parenzo e Gottardo hanno messo tra i morti in Abruzzo uno che era morto e affogato, però siccome è risultato adesso fanno lo sapete che fanno che i test, i tamponi. Ascolta, fanno i tamponi con i morti e lui è risultato positivo, morto affogato, ok? L'hanno messo tra i morti Covid. Dunque tu non credi, non credi al conteggio dei morti, questo mi pare di capire. Assolutamente no, tra l'altro adesso stanno girando video di persone che vengono ricoverate in ospedale, soprattutto in Campania, scafati, hanno detto che hanno riempito l'ospedale di persone positive e asintomatiche. Non sanno più come giustificarla questa emergenza e vanno a cercarsi i positivi asintomatici che sono perfettamente sani per prolungare lo stato di emergenza e per continuare a terrorizzare positivi le persone asintomatici che però diffondono il virus, a far prendere i miliardi alla Fiat che produce le mascherine. Ma meno male che produce le mascherine, ma che c'è del business della Fiat? Ma non è le mascherine, dicendo? Non servono un cazzo, perché se fossero tu non servi a nulla, tu non servi a niente, siccome tu non ragioni, la squinternata che non sei altro, vai a baciarti coi cani, come fai? Vai a baciarti coi cani, vai a dormire coi gatti. La mascherina obbligatoria aperta da sempre, i casi non sono diminuiti, anche squinternata, anzi sono aumentati, la Svezia dove la mascherina non è obbligatoria. Si sono abbassati i casi, le mascherine non servono assolutamente a nulla, è un affare economico, affare economico enorme, perché chiaramente questi sono pure proprietari della GEDI, quindi tra l'altro sono pure editori, eccetera, perché poi ci sono i giornali, hanno in mano la comunicazione, ma secondo te Ma cosa dici? Fanno l'interesse a non produrre più ma non fanno i soldi con le mascherine, sì, ma cosa dici? Ma cos'hai nel cervello? La segatura, che cosa c'è? La biata del cavallo nel cervello? Sempre al servizio dei potenti, sempre al servizio dei potenti. Ma cosa c'è? Tu sei un lecchino del governo, ma capito? Cosa, che ma quale governo? Ma che me ne frega? Se tu non fossi così, tu non lavoreresti proprio, hai capito? Ma che me ne frega? Tu non presenteresti programmi televisivi e manco in radio saresti, perché sei un lecchino del governo. Ti dicono di appegonarti col culo per aria, tu lo fai, bimba, non ti pone manco senti, il problema. Squinternata, no, ascolta no, me, squinternata. Moglie, non ci chiami me, giri, devi dare lei, giri con quei quattro, ma quale lei? Giri con quei quattro cani, come una stracciona e parli quattro, pure di medicina. Uno, ma che ne sai te? Uno solo, ne ma uno che solo. Ne sai te? Che ne sai? Che ne so io? Che ne allora, so fermi, io? Tutti, io fermi tutti, fermi tutti, mi pare di capire che secondo la Martani distanziamento sociale, sanificazioni, mascherine non servono a un cazzo. Ma chi è la Martani? Io non l'ho mai fatto. fatto, non mi sono presa niente, io non ho mai fatto, non mi sono presa niente. Tra l'altro nei posti dove tutte queste regole vengono a, i morti sono i morti sono gonfiati, mi sembra che tu dici i morti sono gonfiati. Ma sono palesemente gonfiati, ma e i numeri dei contagi attuali pure sono gonfiati. Ma scusami, scusami, allora, ma se tu che vuol dire contagiato? Fammi capire. Se risulti positivo sintomatico, sei malato? Fammi capire, no? Perché questo se, non c'è dubbio. Questo se non c'è vogliamo dubbio. Far passare il positivo sintomatico malato, allora siamo veramente messi. Siamo nella merda, perché se tu ti fai un tampone per qualsiasi altra cosa e risulti positivo, vuol dire che sei malato. No, fammi capire sta roba qui. E Burioni, che dice che le cose cominciano a mettersi male, comincia subito col terrore. Le cose cominciano a mettersi male. Attenzione, attenzione. Ma scusate, ma come fanno a giustificare il prolungamento dello stato di emergenza? Cioè, se non mettono, dicono roba mettono qua in macchina, rimettono in pista Burioni, dici, rimettono in pista Burioni. Ma chi scrivono? Scusami, Burioni era sparito quando era finita la trasmissione di Fazio, è magicamente ricomparso quando è ricominciata la trasmissione di Fazio. Tu ti fidi, appunto, sulla pandemia, ti fidi più di Burioni o della Martani? Questo ma è da capire. Vabbè, adesso ti rispondo subito. Intanto un importante dirigente aziendale mi scrive: tanto non ci credo, non sono veri quegli scemi che chiamano, ci prendete per il culo. No, caro amico, lo chiamerò per nome di battesimo, Daniele. Sì. No, caro Daniele, purtroppo sono tutti drammaticamente veri. Comunque a me piace molto di più il dubbio della Martani rispetto alle tue certezze sui vaccini. Ma tu chiedi lei dubbi, ha dei dubbi. Lei ma ha tu dei sai dubbi. Che sei più pericoloso della Martani? Perché? Tu sei più pericoloso della Martani, perché mentre la Martani è una povera scalzacani che porta in giro quei quattro straccioni di cani sporchi che ha, neppure vaccinati, e dorme coi gatti, bacia i topi, sta in mezzo a tutti questi animali come vivesse in una fattoria. Questa poveretta qui, che andrebbe bene nell'isola di Robinson Crusoe, è meno pericolosa di te, che invece sei il vero criminale, perché lisci il pelo a questi quattro straccioni. Però scusami Daniele, un'ultima cosa. Ieri da noi l'avvento ha detto è un po' come te, ha detto meglio appunto i cani dei maschi, meglio appunto i miei. Che lei vive con sette cani, la ma signora certo, meglio confermo, meglio i cani delle, in generale delle, degli esseri sì, umani, purtroppo io bene, devo confermare. Io cioè no, meglio solo i cani dei maschi, ha detto, quella da 4 anni sì e mezzo non scopa, sì, te la stai raggiungendo, ma la stai ragione, raggiungendo. Ma la sta raggiungendo, sì, ma perché a un certo punto uno si rompe le palle e dei maschi non ne vuole più sapere, perché tanto siete traditori. Cioè, questo ormai l'uomo è tradito, questo l'uomo è tradito. Ma che viceversa? Io conosco mie amiche che hanno avuto un solo uomo nella loro vita, lo capisci? Cioè, amiche mie che traditori, sono poi che sono gli uomini traditori? Poi sono traditori, sono inaffidabili, perché appunto, cioè, appena li giri dall'altra parte, figura, te ne fanno di ogni cosa, poi appunto, cioè. Ma io conosco delle donne, conosco delle donne che sono affamate di minchia, che tu non hai idea, che tradiscono i loro uomini a rotta di collo. Ma conosci soltanto te, perché io conosco tutte persone che non sono così. Ma come mai sta roba qua? Ma perché ti vengono a cercare con l'anternino? Cruciani, lo sanno come sei, è chiaro. Invece io conosco gente per bene che per fortuna gente crede per nell'amore, sì, nell'amore. Chi sai vuol dire nell'amore? Sapete che vuol dire fare l'amore? Non scopare, fare l'amore con una persona. Ma chi fa le orge? Chi è? Chi fa le orge? Che secondo te chi è chi fa le orge? Come lo consideri uno che fa le orge? Sono dei pervertiti, poverini, che non riescono più a godere dell'amore di una persona sola. Lo scambio di coppie per te è una roba da pervertiti, da malati di mente, lo scambio di coppie. Cioè, per me sì, però purtroppo esiste come molti animali lo fanno, però Martani, molti animali sono pervertiti, quindi sì, esatto, gli animali scopano a destra e a manca, non è che sono fedeli. Le scimmie per esempio sono i pervertiti, scusami, come no, i crotali, i leoni marini fanno delle orge della Madonna. Questo non lo so. Ma guarda, io non ho visto i documentari dove fanno le orge gli animali, sinceramente. Sicuro, per fortuna, noi gli animali li amo di rispetto, ok, però noi siamo un po' diversi dagli animali, perché sennò veramente dovremmo andare il leone culo, che si tromba anche 5 culo dei, 5 6 dovremmo andare il culo ogni volta che ci incontriamo, che dobbiamo fare questo. Ah, lo vedi che c'è una differenza tra esseri umani e animali. Ciao Daniele, presto. Ciao. Ma non significa che non devono essere rispettati e che devono essere viva ammazzati. Viva le orge, perché viva le ciao, orge, cara, viva. Ti abbraccio comunque. Ciao. Ciao. Lorenzo da Milano, avanti tutta, dai. Avanti tutta, Lorenzo da Milano, vai. Sì, eccomi. Dimmi. Allora, vorrei dare il mio contributo sulla la teoria degli sputi che è diventato poc'anzi. Ma ragazzi, ma gli sputi sono fondamentali, inutile che ci giriamo intorno. Oh, per me sono fondamentali. Io quando sto con una donna, ogni tanto dipende da che donna, amo sputare dappertutto, in faccia, dappertutto, dai. Una bella sputazzata in faccia, dai, con schiaffo annesso, con schiaffo annesso. Esatto, mi stai anticipando, che bassezza. Sono due tipi, i tecnici e quelli praticamente dominanti. Il tecnico è quello ovviamente sul sedere, sul culo prima di penetrare, giusto? Non ho capito bene, non ho capito bene. Lo sputo tecnico? Ah, vabbè, quello chiaro. Tecnico per preparare, diciamo, il sesso anale, d'accordo? Esatto, sì, perché può essere sulla mano, poi sì, quello non è indice, diciamo, di dominazione, no. Non è spitting quello, no? Giusto, no, Paolo, mi correggi. Quello è lo sputo tecnico, sì. Poi? Mentre invece i dominanti ci sono ovviamente, si dividono allora in varie categorie, sono quelli in faccia, sì, ovviamente garantissimo, sì, bellissimo, sì, sulla schiena, sì, ovviamente, beh, con schiaffo anche, vabbè, andiamo avanti. Dunque, dopo questa descrizione tra sputo tecnico e sputo dominante, che è importante, aspetta, interessante. E quello è il fondamentale, è quello in bocca, lo sputo in bocca a fontanella. Sputo in bocca a fontanella, cioè? Quando tu praticamente sei sopra e fai calare la tua bava nella bocca dell'altra persona. Ottimo quello, ottimo, bravo. Mi hai ricordato un'altra cosa. Lo sputo a fontanella significa far calare la bava così. Esatto, e quello mi faccio fare, a volte mi faccio fare anch'io, ovviamente. Quello è l'unico che io posso subire anche. L'unico che puoi subire. Lorenzo, andiamo d'accordo su tutto. Ha votato lei alle ultime elezioni, posso chiederglielo? Ha votato sinistra, sicuro, la sinistra. Guarda, perbenista, io ti stimo veramente tantissimo intellettualmente. Cosa hai votato, Lorenzo? Dimmi cosa hai votato, così accontentalo, dai, accontentalo. No, non ho votato, purtroppo. No, però sei lavoro. Tendenzialmente di sinistra, ragazzi. Di destra, purtroppo. Di destra, va bene. Allora, non ho altre domande. Però ti posso dire che questo mondo qua, che tu invece dipingi come un mondo sovranista, te lo ripeto per l'ennesima volta, è chiaramente un mondo che è dall'altra parte. Cioè, la promiscuità, le perversioni sessuali sono assolutamente di sinistra. Diciamoci la verità. Poi ormai è tutto trasversale. Però se vogliamo attribuire un campo politico a questo tipo di perversioni, soprattutto alla promiscuità, allo scambismo, è da quella parte che dobbiamo guardare, non al sovranismo. Ma lo dice la parola stessa. I socialisti ne presero un sacco di sputi, ma non era dominazione quella. Fermi tutti. Chiedo scusa, un momento, pubblicità. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta La Zanzara. Comunque, secondo me la pratica top in assoluto in ambito sessuale riguarda sempre il pissing, e consiste nel ricevere una golden shower dalla donna, in particolare sul membro, e poi farsi fare una fellazio senza ovviamente pulirlo. Mamma mia. E questo è un messaggio per Parenzo il bigotto, che dice che non si è mai masturbato davanti a un film porno. Uno, non ci credo. Due, lo invito a farlo con un bel dito in culo. Ascoltavo serenamente il podcast quando iniziò la descrizione del pompino con testicolo annesso. Beh, amico mio, sono entrato talmente nella parte che mi hai fatto venire il cazzo duro. Giuro, avevo il cazzo duro. Mamma mia. Allora ragazzi, un paio di notizie, al di là delle cose sessuali, una molto importante: il premier inglese Boris Johnson vorrebbe mettere i migranti sulle navi al largo delle coste, idea meravigliosa, vorrebbe acquistare una vecchia imbarcazione, tra l'altro sta trattando pure col governo italiano, una vecchia imbarcazione che potrebbe ospitare fino a 1400 persone in attesa che il loro status venga valutato dalle autorità. Meravigliosa. Ma perché incredibile? Non ho capito. Perché devi per forza farli arrivare sulle coste? Una roba talmente inumana. Ma che inumana? Ma è l'Inghilterra, è la Gran Bretagna, la culla della civiltà. Le navi a largo con 1400 uomini a bordo, straordinario, invece di farli arrivare qui con tutta la burocrazia, delle rotture di coglioni, le associazioni, i preti, eccetera. Dai, su. E dai. Poi c'è uno che si è messo a riprendere un tizio che andava con un monopattino a 80 all'ora a Verona. Forse abbiamo addirittura l'audio a 80 all'ora a Verona. Tanto per rinfocolare le polemiche sull'uso del monopattino alla Feltri maniera. Cioè, siamo ai 90 all'ora e davanti a me un monopattino che ha superato tutte le macchine. Non è pazzesco. Fuori, ma questo qua si è messo a superare prima le macchine. Guarda, guarda, adesso supererà questo, guarda. Allora ragazzi, giunge notizia, mi giunge notizia da Salò, città cara, cittadina cara, a me cara per esempio perché la sfioro sempre quando vado a Madonna bella. Di Campiglio in macchina, passo sempre vicino Salò. Sì, non è cara, bella Pasolini, Pasolini, bravo, sì, assolutamente. Salò, e i 100 giorni di Sodoma 120, per esempio. 120. A Salò c'è, 120, c'è sì. un'associazione guidata da un signore che si chiama Gianluigi Pezzali, il movimento Salodiano Indipendente. Voi direte che cazzo c'entra, ma chi cazzo lo conosce? Esatto. Vogliono organizzare, anzi organizzano ogni anno una cena in onore della marcia su Roma. Poi va. Siccome inizia ottobre, come sapete, certo, la marcia su Roma, certo, no? La marcia su Roma, famosa marcia su Roma. Sostanzialmente fascisti, gente che si dichiara fascista. Beh, no, e vuole rievocare la marcia su Roma. Tutto legittimo per te, no? Ma sì, ma sti cazzi, cioè, una cena. Adesso vogliamo imprigionarli. Una cena non si nega vogliamo nessuno. Imprigionarli. Se la stessa cosa la facessero in Germania per ricordare la notte dei cristalli, ad esempio. Ma no, ma la Merkel cosa direbbe? Va bene. Ma l'omologo ma della lo fanno, zanzara. Ma lo fanno, qualcuno lo fa. Ma uno non ha coraggio di dirlo nelle radio tedesche. Lo arresteremmo subito. E non ci sarebbe un Cruciani locale che direbbe all'attacco. No, non ci sarebbe. Non ci sarebbe. Pronto? Sì, salve. Stavo cercando il signor Pezzali. Chi parla, scusi? Buonasera, chiamo da Radio 24, mi chiamo Cruciani. Un attimo solo, vedo. Prego. Pronto? Signor Pezzali? Pronto, sì, mi dica. Buonasera, come va? Qui Radio 24. Buonasera, lei come va? Beh, non c'è male, me la cavo. Senta, ho letto da qualche parte che stanno iniziando i preparativi per questa cena, per la marcia su Roma. Sì, ma sarà molto probabilmente salterà tutto. Come mai? Non per motivi di politici, ma perché... Per il Covid. Anche il discorso della cena è legato al Covid. Certo. Il distanziamento, abbiamo già provato a vedere il distanziamento di una sala che stava in 300-350 persone nelle due sale, sì, ce ne saranno 120 e pertanto dire di no agli altri mi era difficile, probabilmente salterà tutto. Ma scusi, questa scena voi la fate ogni anno naturalmente per celebrare? A Salò la fanno dal 1922, sì, io la faccio dal 1947. 48. Dal 47, dunque dal 47 le fa una cena in onore della marcia su Roma. Aspetta. No, non è in onore, non mistifichiamo per questo. No, per carità, non mistifichiamo. È in memoria. In memoria, certo. Cioè, particolare di chi non c'è più, in effetti. Certo. Noi all'inizio di questa cena, che poi è una cena abbastanza semplice, tutto sommato, sì. Leggiamo l'elenco dei morti che sono morti prima e quelli che sono morti dal 28 al 28 di quest'anno. Scusi, ma la cena comunque è sempre in onore di Sua Eccellenza, mi sembra di capire, o no? No, è il ricordo della marcia su Roma, non è neanche commemorazione. No, però voglio dire, c'è sempre Sua Eccellenza come punto di riferimento. Sì, in effetti, al di là di ogni cosa, tra bene o male, chi l'ha inventato è uno solo, insomma, il fascismo. Non c'è dubbio. Lei ha quanti anni ha, scusi, signor Pezzali? Io ho 75 anni. 75 anni. Ha vissuto a lungo. Lei si dichiara 75 anni fieramente fascista, diciamo. Io ho sempre considerato il fascismo un'incompiuta. Un'incompiuta, addirittura. Nel senso che, se è vero, come già i problemi che sono venuti fuori e vivi in questo paese, ho fatto 35 anni consigliere comunale, però per 35 anni consecutivi per l'MSI fino all'arrivo di AN, poi gli anni passavano e sono rimasti in rapporti con tutti. Però oggi cosa vota oggi? Io voto Fratelli d'Italia. Però la cosa che voglio capire. Non ho altre domande, grazie. La cosa che voglio capire da lei: lei come lo considera Sua Eccellenza? Sì, io lo considero sicuramente non come l'ha considerato Gianfranco Fini, ma come l'avevano considerato 500-600 scrittori. Colui che inventò il fascismo, e il fascismo è la produzione del futuro. Cioè, lei pensa che sia stato un grandissimo statista, uno dei... Penso che sia stato un grande statista. Uno dei più grandi. Non certo un grande, per quanto mi riguarda, per quanto la storia che io conosco bene, sì. non fu l'eccellente secondo tiro, ma un grande statista, sì. Un grande statista. Scusi, ma Sua Eccellenza, secondo lei, quali sono le cose che ha fatto straordinarie per l'Italia? Beh, cioè, dai, perché lei celebra la marcia su Roma. Ma significa... l'INPS, la riforma dell'università, ma che scherzi, l'INPS. L'impero. Anche. Oggi stiamo usando ancora circa 774 leggi fatte dal fascismo, hanno fatto poco in questi ultimi 70 anni, oppure va bene ancora quelle leggi lì. Cioè, secondo lei, tra la democrazia che c'è adesso e quello che c'era prima, non c'è dubbio, meglio il ventennio? Cioè, mi sembra di capire. Altrimenti... La democrazia io l'ho vissuta, io ho giurato a questa Repubblica. Ho capito, però come fa a giurare a questa Repubblica, essere contemporaneamente affascinato e essere un ammiratore di Sua Eccellenza, amico mio? Allora, il fascismo non è stata una solamente, come dicono molti, olio di ricino e manganello. Beh, oddio, però era una dittatura, però, amica mia. Certo, perché questa che non votiamo non è mica una dittatura, questa. Beh, come questa? Non votiamo. Diverso. Beh, amico, è un po' diverso, leggermente diverso. Non stiamo votando, è dittatura nel senso che... Sì, ma non si mettono in carcere le persone, però. 174 decreti legge che ma non si mettono in carcere le persone. Ma non si mettono in carcere le persone. Non si picchia, non si uccide il nemico politico per strada. L'avversario politico non viene ucciso oggi per strada. Mettono in carcere anche in Inghilterra e in Francia. Ma i stessi motivi, eh. Erano però democrazie quelle, erano delle democrazie, certo, che dice? Il progetto è fatto dalla democrazia o dal fascista, non cambiava, muore sempre una persona. Ho capito, però. Comunque, rimettiamo in ordine una cosa, se non ho capito male, mi dica se sbaglio. Io ho capito che lei ogni anno organizza questa cena per ricordare la marcia su Roma, è corretto? È corretto. Che organizzo io esattamente, sono 54 anni. 54, questo è corretto, no, non voglio dire cose inesatte. Allora, per carità di Dio. Allora, lei da 54 anni organizza questa cena per ricordare la marcia su Roma, corretto? Corretto. Esattamente, sì. Lei si dichiara assolutamente fascista e anche questo credo sia un dato corretto. Certo. Lei ha altresì aggiunto terzo elemento che attualmente lei vota per il partito Fratelli d'Italia, esatto. È corretto? Bene, allora in 40 secondi la posso gentilmente, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, mandare a fare in culo? Con tutto il rispetto, però, perché quando vuole, ma io benissimo. Non ci vado, ci vada lei che è esperto, benissimo. Evidentemente, perché nel pezzo nostro paese merda. Il fascismo è un crimine. Oh, ma cazzo, non me l'aspettavo questa conclusione. Richiamiamo subito. Con calma. Sì, ma non volevo. Tu hai ascoltato, sì. Poi hai fatto il solito riassunto. Sì, il solito riassunto. Ho fatto il riassuntino. Richiamiamo, però, vai. Pronto? Pezzali, mi scusi, volevo chiedere perdono per il mio collega, scusi, è stato un po' cafone. Pronto, ma santo cielo. Pezzali? Pronto? Pezzali? Sì, un attimo. Scusi. Rispondi tu? Marcia su Roma, non sa rispondere al telefono. Ragazzi. Pronto? Vuol fare la rivoluzione e non risponde al telefono, a ti pare? Pronto? Manca la BC qui, però. Manca la BC, amico mio! Fa la rivoluzione, non risponde al telefono. Ma com'è possibile? Pronto? Aspetta, Quando c'era lui funzionavano. Pronto? Secondo me sono gli inglesi che hanno già bombardato le linee nemiche. Sì. Pronto? Pronto, ma santo, se non si sente. Quando c'era lui le telefonate arrivavano in orario. Pronto? Pronto? Pezzali? Non si sente più. Pezzali? Vorrei sentire qua, ma come, cosa sta succedendo qui? Pezzali? Pronto, Pezzali? Ma queste linee telefoniche perché non funzionano? Pronto? Pezzali, mi sente? Siamo al fronte, Pezzali! Fineco, è tempo di investire con noi. vi presenta La Zanzara. Così, così leccala tutta, tutta, tutta da giù, anche da dentro, anche da dentro. No, no, da qua, da qua. Tutto questo, bravo. Sì, così, così, così, lecca la scarpa, così, così. Lecca piano per bene! Che bravo, bravo bambino, così. Sì, adesso le andiamo in bagno, lecchi il pavimento del bagno, hai capito? Allora, racconto reale, vero, di un rapporto tra dominatrice e schiavo. Mamma prima mia. Avete sentito, io ho anche il video, schiavo che lecca il piede, la scarpa della dominatrice. Poi porta lo schiavo in bagno e sentite. Così, il bagno, bravo. Bravo. Anche il secchio, tutto, tutto, tutto quello che è sporco lo devi leccare. Lecca il cesso, così, bravo. Mamma mia. Così, così, bravo. Lecca, lecca così per bene. La Confindustria. Piano, bravo. Magari sono i bagni della Confindustria. Beh, no, non credo, quelli sono pulitissimi. Quelli sono già pulitissimi. Comunque, questa possiamo definirla una perversione, o anche questa non possiamo definire una perversione? Sì, certamente. C'è uno che lecca i bagni sporchi con una schiava. Con una dominatrice. No, io no. Io e tu no. Anche con una dominatrice. Però non pensi, se qualcuno lo facesse, e lo fanno persone insospettabili, certo, grandi manager, grandi ma industriali dire, di questo paese, come no? Proprietari di aziende di questo paese, leccano i bagni con dominatrici che li tengono al guinzaglio. Ma non dire. Guarda, non mi fare parlare. Non mi fare parlare, David. Ma cosa dici? Non mi fare parlare, David. Non mi ma fare parlare. Ma no, quello non lo so. Quello non lo so. In quell'azienda non lo so. In quell'azienda ma io vi porto via so. Tutto. Voi siete matti. Giuseppe siete. Da Reggio Emilia. Giuseppe da Reggio Emilia. Eccolo. Dimmi. Allora, vado dritto al punto. Io sono un amante dello spitting, sia attivo che passivo. Per fortuna in questo periodo di Covid non sto riscontrando particolari problemi a praticarlo con quelle ragazze con cui diciamo mi intrattengo, diciamo così, quindi sono un amante come quello che è intervenuto prima, sia anche della fontanella che degli sputi in pasta, sì, sì, eccetera. Che rappresentazione del paese. E che ne dica Parenzo, questo è assolutamente normale, perché conosco tantissime persone che hanno lavori rispettabilissimi e che, fanno, che hanno anche dei ruoli importanti, proprio come dicevi anche tu prima Giuseppe, magari manager o comunque dirigenti che lo praticano. Quindi basta questo supervenismo del cazzo che ha rotto i coglioni. Sì, no, ma questo non c'è dubbio. Ma tu pratichi lo spitting in maniera regolare? Che orrore. Beh, non sempre, perché non tutte le ragazze ovviamente sono di cioè, come fai? Com'è il tuo spitting preferito? Qual è, diciamo, la tua modalità di spitting? In faccia e sul seno, mi piace tantissimo. Mi piace cioè, sputare in faccia e sul seno. E poi che fai con lo sputo? Anche, lo lasci colare, lo prendi? Sì, poi magari ho appena cenato. Io ho appena cenato e provo schifo per questa schifo. Certo. Mamma mia, lo spitting è una cosa normalissima. Non diciamo cazzate, ragazzi. Assolutamente. Poi, insomma, sono altre le cose, sinceramente, perverse dal mio punto di vista. Poi, sì, mi piace proprio vedere la goccia che cade, proprio il rivolo. Sì, sul seno o sul viso. Poi mi piace anche subirlo. Quindi, sul petto, penso che sia assolutamente molto eccitante, anzi proprio durante l'atto è assolutamente un boost in più, ecco, diciamo. Ciao così. Giuseppe, ciao. Allora ragazzi, abbiamo qui un signore che ha una fissazione sessuale, chiamiamola così, una perversione strana, piuttosto strana. Ci siamo occupati mesi fa. Perché ci sono quelle normali poi di perversioni. Beh, no? Sì, assolutamente. Io ho detto strana. Le perversioni. Io ho detto strana, non ho detto che è un anche mostro. Anche nell'ambito delle perversioni. Sì, sì, ma strana, cioè strana, bizzarra. Cioè? Cioè, è appassionato di donne amputate. Lui si chiama Mauro, amputate. Adesso ce lo spiegherà bene. Lui si chiama Mauro, ha 50 anni, sposato, figli, un lavoro normale. Tutto giusto, Mauro? Tutto corretto? Sì, esattamente. Allora, da dove nasce questa tua perversione? Innanzitutto, come si sviluppa? Cioè, tu sei eccitato dall'idea di andare con una donna che ha che cosa? Una gamba amputata, tutte e due le gambe, cosa? Esattamente una sola gamba amputata, una sola, e mai tutte e due. Sì. E nasce dall'età dello sviluppo. Cioè? Da quando sei adolescente, sì, hai le prime fantasie sessuali, diciamo. Sì. Io ho questa predilezione. Sì. Premetto una cosa. Che parallelamente a questo, io sono anche un po' amante del feticcio dei piedi, cioè il piede femminile mi piace molto. Beh, evidentemente no? Un solo piede però, perché l'altro, se sei in contemporanea, sì, però, amante della gamba amputata... Sì, certo, però se una donna non amputata... normale. Vabbè, non è il tuo unico, diciamo, non è il tuo unico scopo nella vita, quello magari di farti una donna con una gamba amputata, ecco. No, ecco, mi piacciono i piedi in senso lato, in senso, ecco, così. Come riesci a giustificare, magari sei andato da qualcuno, questa tua passione, cioè sei andato da qualcuno, da uno psicanalista, da uno psichiatra, oppure non te ne frega assolutamente nulla? E poi l'hai concretizzata questa cosa o no? Oppure non sei mai andato con una donna disabile? Non ci sono mai andato. Sì. Non ne ho mai conosciuto nessuno di persona, mi è capitato di vederne qualcuna per la strada, tra l'altro non è una cosa così tanto usuale, quindi è una cosa molto peculiare. E vai in cerca? In cerca vuol dire che se vai in giro, vai agli affari tuoi, o vai a farti una passeggiata, o vai a farti un giro in bici, l'occhio è rivolto anche a guardare quello. No, ma vai anche in alcuni luoghi, in alcuni posti dove puoi trovarle, perché le perversioni, diciamo, chiamiamole così, si possono sviluppare, no, anche in questo modo, hanno anche delle, no? No, no, no, non vado, come posso dire io, negli ospedali, che ne so, nei centri di ortopedia, non so dove. No, magari se passi davanti a un centro ortopedico potresti buttare l'occhio, ma dentro l'ospedale ovviamente non vado, ecco, certo, dentro l'ospedale. E perché non hai mai concretizzata questa cosa? Non è stata mai concretizzata perché voi capite bene che non è una cosa così tanto usuale da trovare. Anzi, inconfessabile, credo che tua moglie non lo sappia. No, è una cosa che io vivo dall'età dello sviluppo fino a questo istante in un totale anonimato, nella più totale discrezione, oserei dire in un modo totalmente intimo, soltanto mio. Tu non hai mai avuto un rapporto, ma queste cose ti fanno eccitare, cioè ti masturbi sopra qualcosa? No, questo è un parolone magari forte. Mi piace molto vedere una donna che abbia questa caratteristica. Ripeto, beh, ti farà eccitare forte, probabilmente. Sì, sicuramente, mi crea una forte emozione. Ma hai paura di provarci con una così? Non ti va di cercarla? Non so, cioè, perché non l'hai concretizzata finora? Tenete presente che una perversione, per un perverso motivo anche lui, molte volte è più bello averla e cercare, chiamiamolo l'oggetto, anche se o la persona o quello che serve, no? Che non puoi effettivamente poterne usufruire. Sì, quello è vero. È più bello averla, gestirla anche, che non puoi forse non poterne usufruire, metterla in pratica, esattamente. Però la masturbazione di fronte a queste cose ci sarà stata, cioè come sfoghi questa tua perversione? Cioè può essere capitato. Tenete presente che io non ho mai fatto male a nessuno, ho mai... Stalkerizzato, non hai mai stalkerizzato? Assolutamente, non ho mai molestato, stalkerizzato nessuno, non ho mai fatto nulla di male a nessuno, assolutamente. Ma ti capita di andare a cercare nel web delle donne così? Immagino di sì. Allora, cercarla nel web è la cosa più facile e ovvia che ci sia nei tempi moderni. Basta un click, basta scrivere amputee woman leg, ti si apre un mondo. La vedi come vuoi, bella, brutta, alta, bionda, dei cinque continenti. E ti ecciti a guardare queste foto? Queste immagini? Sì, mi piace, però è meglio dal vivo. Hai mai pensato di confessare a tua moglie una cosa di questo tipo? No, perché le perversioni sono inconfessabili. Cioè, tua moglie come reagirebbe, secondo te? Secondo me, intanto, non farebbe fatica a poterlo capire, ad accettare. Beh, sì, devo dire che faccio fatica pure io, nonostante io sia una persona molto aperta, sì. Ma no, non condanno nulla, perché ognuno si può citare come vuole, poi tu non arrivi alla stalkerizzazione, non è che vai a rompere i coglioni a queste persone. Però devo dire che faccio fatica ad accettare, perché effettivamente provare eccitazione per una donna disabile o per una donna senza una gamba, nel tuo caso, qual è, diciamo, il prototipo di donna che ti piace di più, cioè per cui ti ecciti di più? L'amputazione come deve essere? Allora, intanto, rispetto alla disabilità, mi piace solo l'amputazione e quindi nessun altro tipo di disabilità, nessun'altra, quindi soltanto quella. E che tipo di amputazione? Della gamba, diciamo a metà gamba, un po' oltre il ginocchio. Sopra il ginocchio? Destra o la sinistra? Potendo scegliere, come? La destra o la sinistra? E diciamo che in linea di massima è indifferente, se proprio dovessi schiacciare il bottone preponderei per la sinistra. Io sono stato quasi amputato la gamba a sinistra, sì, a lei non dà l'idea, a lui piacciono le donne chiaramente, ma lei non dà l'idea che dietro quell'amputazione c'è una marea di dolore? Beh sì, certamente, infatti non è che... Certo, a livello anche fisico, ma anche psicologico. Cioè, tu li stai dicendo, non ti fai schifo per questa cosa qua? Questo vuoi dire? Sì, un po' schifo, dire io lo provo, sa. No, ma perché dovresti provare schifo? Cioè, lui dice: uno dovrebbe provare schifo ad avere piacere per il dolore altrui. Beh, però uno prova piacere su un dolore. Io ho avuto 12 operazioni per salvare la mia gamba. Chi è amputato ne prova tantissimo. Insomma, lei si erige letteralmente sul dolore di una donna. La trovo una cosa atroce. La domanda legittima è questa: non da solo, cioè guardandoti allo specchio, per questo tuo tipo, diciamo, di perversione, chiamiamola così, si fa un po' schifo. Ti fai un po' schifo oppure pensi che sia una cosa normale avere un tipo di perversione del genere? Allora, non mi faccio schifo, non mi rendo neanche conto che non sia una cosa non normale. Credo che faccia, credo, io non sono medico, non sono neanche psichiatra. Sì. Sono venuto al mondo con questa cosa. È una perversione, ve lo dice la parola. Se non fosse una perversione, no, sarebbe una cosa normale per tutti quanti. Ma avresti, cioè, se ti contattasse qualcuna, no? Una donna, e dice: guarda, io ho saputo, dopo averti sentito, mettiamo che ti riesca a contattare, che sì, mettiamo che io ti metta in contatto con una donna del genere. Cos'è l'agenzia matrimoniale? No, ma per dire, dopo questa intervista una persona scrive qua e dice: io vorrei essere contattata, sono una donna con una gamba amputata, esattamente le caratteristiche che piacciono a Mauro, vorrei entrare in contatto con lui, tu che fai? Intanto deve essere adeguata a un'età, quindi in base alla mia età non può essere così tanto giovane neanche così tanto vecchia, quindi intanto deve essere questa cosa qui, prima cosa. Seconda cosa, deve essere totalmente consenziente, nel senso che deve essere una cosa reciproca. Ma non è impulsiva questa cosa? Cioè non hai l'impulso di masturbarti quando vedi delle foto di questo tipo? Cioè ha un aspetto di questo tipo oppure no? È irrefrenabile o no? Riesci a frenarti di fronte assolutamente, a un... Assolutamente, perché allora se dovessi vederne una che fa una passeggiata in un parco, sarei un mostro. Saresti tentato di andare, non dico di fare qualcosa, ma di andare lì, no, e metterti in contatto con lei. No, assolutamente, cioè non mi permetterei mai di una cosa del genere. Ma ti vergogni un po' ti vergogni di questa cosa? Sì, perché altrimenti lo diresti tranquillamente a tuo marito. Un po' te ne vergogni, mi pare evidente. È molto anomalo, diciamo che è una cosa, io mi rendo conto che è molto anomalo. Questo non c'è dubbio. Ma non è mai venuto in mente di andare da uno psicologo? No. Ma con tua moglie i rapporti come sono? I rapporti sessuali, normali? Normali. Mia moglie è normodotata, normali. Non sono condizionati da questa cosa. Non è che tu, andando a letto con tua moglie, facendo sesso con tua moglie, pensi a cose di questo tipo. Magari sì. No, sono una cosa normale. Io questa cosa, ve l'ho detto all'inizio, la vivo, sì, in un modo totalmente mio, distaccato dal resto della vita normale mia, di famiglia. Beh, se riesci a, come dire, a creare due mondi separati, tanti auguri. Grazie Mauro, grazie, io a presto. Quello, proprio quello faccio. Grazie, a presto, ciao. In gamba, in gamba. L'incredibile mondo dei devotee, caro Parenzo. Sei stato zitto tutta l'intervista, caro Davide. Sono imbarazzato. Imbarazzato anche perché mi ha colpito Gottardo, che giustamente gli ha ricordato che per lui è stato un dolore l'incidente che ha subito. Ma se uno è attratto dalle donne senza una gamba, potrà essere attratto. Si fa curare, dai. Francesco da Bari, vai Francesco, rapido. Ciao, rapido. Pronto. Dimmi. Ciao, senti, io ascoltando il cacciatore che sosteneva che preferiva una bella cacciagione a Belen, sì, ho pensato, sarà che evidentemente c'è un uccello morto e allora è più contento, più uccelli ammassa così e stanno in buona compagnia, o meglio sta in buona compagnia. Ma non dire cazzate, dai Francesco, ma non dire puttanate. Ma pronto, che cosa c'entra? Stai dicendo che praticamente è impotente, allora spara per sopperire a questa mancanza? Non dire stronzate, dai. Bravo, vai a cagare. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.